che non mi venga duro. Invoco una preghiera al dio della fertilità. Non voglio figuracci, no, non credo mi convenga. La prego, dottoressa, non mi tocchi proprio là. Ma cosa sto facendo, dottor Clappy, si contenga. Fa che non mi venga duro, fa che non mi venga. Fuck, fuck. Fuck, fuck. Fuck, fuck. Fuck, fuck, che non mi venga duro. Il corso di ginnastica mi sta facendo bene. Rimango concentrato anche se questa porta al tanga. Ma quando proprio sto per fare a pezzi le catene, risento quella voce. La prego, si contenga. Fa che non mi venga duro, fa che non mi venga. Fuck. Fuck, fuck. Fuck, fuck. Fuck, fuck, che non mi venga duro. D'estate all'improvviso tutti quanti arriva al mare. Però non è possibile, mi sembra mugabunga. Ragazze che mi fissano con queste enormi pere. Ma faccia gentiluomo, dottor Clappy, si contenga. Fa che non mi venga duro, fa che non mi venga. Fuck, fuck. Fuck, fuck. Fuck, fuck. Fuck, fuck, che non mi venga duro. Ed ecco che è arrivato il mio momento dell'amore. E dopo tante chiacchiere arriviamo sul più bello. E guardo un po' che cosa cazzo mi ritrovo a dire. Mi scusi signorina, non mi tira più l'uccello. Fuck, fuck.